sei yo. Viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi, lo dico subito, regalerò 3 libri infami. Oggi è la puntata più attesa della settimana, quella in cui, a nostro insindacabile giudizio, regaleremo 3 libri infami che già hanno fatto la felicità di molti ascoltatori nelle precedenti puntate. In particolare vedo su Facebook l'ascoltatrice Valentina che esulta di gioia, mostra il libro infame che ha avuto impregnato di odori, di sapori e di grafie eccellenti e dice: partecipate tutti al gioco dei libri infami, io l'ho fatto, ho vinto e la mia vita non è più la stessa. Se volete che anche la vostra vita non sia più la stessa, partecipate alla trasmissione di oggi. Io porrò una domanda, chi risponderà in maniera più sincera, più profondamente disinibita, avrà il libro infame e non soltanto il libro infame. Il fatto che lui sia venuto sicuramente non tiene all'altra, perché sennò non sarebbe qui a farsi vedere anche da lei. Ma lo so, ma questo lo so, il gesto intanto è stato eclatante. Poi io, conoscendo anche il suo carattere, il suo modo di fare, ho detto no, non può essere. Però conoscendo che lui è timido, certe cose non le fa. Alberto, tu le vuoi bene, la ami, la vuoi sposare? Io devo dire. La vuoi sposare? Dai! Io infatti gli voglio chiedere scusa perché sono stato uno scioccolo e lo ammetto, perché io gli voglio bene un casino, ecco, sia a lei che... Cosa suo padre e sua madre. Cosa garantisci per il futuro? No, io che garantisco. Io che sono con lei felicissimo e la mia vita non sa andare avanti senza di lei. Questa è la versione sintetica, quella artefatta, quella mediata dalla televisione dell'argomento di oggi, del senso di oggi. Oggi è l'atto indegno che si compie per amore. Amore in senso lato, non pensate che voglia alludere soltanto a quella fattispecie che per convenzione chiamiamo amore, fatto per lussuria, fatto per desiderio, fatto per passione, fatto per perversione. Noi compiamo degli atti indegni profondi. Vedete, questo ragazzino è andato a C'è posta per te e si è steso a terra come una pelle d'orso da calpestare di fronte ai genitori della fidanzata, avrà in qualche maniera tradito, oltraggiato, ingannato, e fa una sorta di terribile mortificazione pubblica davanti al pubblico della televisione per riottenerla. Sa esattamente, forse non sa, data la giovane età, che diventerà suo schiavo per sempre, diventerà la vittima di ogni suo capriccio, ogni sua ritorsione. Chi compie l'atto indegno, chi compie l'atto parossistico per avere soddisfazione d'amore, sa che si mette mani e piedi a disposizione della persona per cui fa quell'atto. Ma però lo facciamo lo stesso. Quali sono gli atti indegni che abbiamo compiuto nella nostra esistenza per amore e per passione? Io, come sempre, mi metto in gioco, vi dico per farvi l'esempio alcuni dei miei atti indegni, anche se questa mattina sono pieno di paracetamolo fino alla radice dei capelli e quindi ho una sorta di euforia procuratami sia dalle pasticchine che mi ha dato una collega poco fa per combattere il terrificante mal di testa che questa mattina voleva impedirmi di parlare, e sia per l'odore di gelsomino che ho cominciato a sentire per l'aria questa mattina. È la prima avvisaglia quando si sente il gelsomino, detto anche arbusto di San Giuseppe, perché comincia a essere l'ultima avvisaglia dell'inverno che fa improvvisamente fiorire una città puzzolente come quella di Roma, i cui vicoli odorano di gas di scarico, di cacca di cane, di quello schifoso unticcio impregnato bitume che sta alle radici dei palazzi di questa città che è cadaverica, ma per questo è meravigliosa. C'è questo fiume denso di pantegane che l'attraversa a metà, che segna il discrimine fra quella dovrebbe essere l'area laica e l'area confessionale, che ormai appartengono a un'unica visione dell'esistenza. Beh, improvvisamente ho sentito nell'aria l'odore del gelsomino, ho cercato dove stavano, non c'erano, c'erano dei tristanzuoli alberi con dei fiorellini rosa che non odoravano di nulla, che appaiono anche quelli per dare delle avvisaglie, ma il gelsomino c'era, l'ho cercato in qualche muro sfessato, dietro qualche cassonetto della spazzatura, non ho visto la pianta ma ho sentito l'odore. Ho subito comunicato al mondo che per me sentire il gelsomino significa avere una immediata fugace, rapida e intensa apertura verso sublimi destini nei quali molto raramente mi incammino. Il gelsomino dimostra che è arrivata la primavera. La primavera non arriva a caso, la primavera arriva fuggevole, veloce, tocca, sfiora, se ne va subito. Immediatamente ci rendiamo conto che appena tolto il pastrano inizia l'estate, non c'è una stagione intermedia, ahimè non ci sono più le mezze stagioni, ma nemmeno le mezze stagioni dell'amore, dell'apertura, della passione, della disinibizione. Abbiamo a disposizione pochissimi istanti. Sappiamo che dal fiorire del gelsomino al bitume che ti si attacca sotto le scarpe, quindi cominciata l'estate, sarà un lasso velocissimo. Ma vi siete resi conto che le giornate cominciano ad allungarsi, che la sera è sempre più tedioso tornare a casa? Vi siete resi conto che ogni telefonata di amico, di amica, ogni fuggevole scambio di occhiate, di sguardi, sfiorarsi la mano, vedersi soltanto nella metropolitana, sentirsi lontanamente, è qualcosa che ti prende radicalmente, ti si attanaglia lo stomaco, ti dà quella sorta di sensazione di inappagamento che finora sembrava che ce la fossimo dimenticata. Beh, signori, è arrivata la primavera. È arrivata la primavera, è arrivato il momento di usare la possibilità di esprimersi attraverso atti indegni. Per avere, per sgraffignare, per mantenere, per rassicurarsi, per ottenere quello che naturalmente la primavera dovrebbe elargirci a piene mani, ma in realtà ci fa soltanto assaporare, annusare, assaggiare. Atti indegni per mantenere l'amore. Quali sono quelli che voi avete fatto? Ve ne dico uno, ve ne dirò alcuni dei miei. Una volta finsi di essere orfano. Molti anni fa, veramente molti anni fa, ma avevo bisogno di impietosire, avendo capito di fronte avevo una persona che si attizzava soltanto se sollecitata a croce rossinici atti d'amore verso una persona sofferente. Io stavo benissimo, amato, vezzeggiato, coccolato, signorineggiato dalla mia famiglia, ma mi finsi orfano, mi finsi disperato, e finsi un dolore inalienabile, finsi un lancinante e improvviso senso di solitudine, e ottenni, forse, non darò mai la certezza, lo scopo. Quindi questo è un atto infame. 800240024, ditemi i vostri atti infami. Già un'ascoltatrice mi ha scritto su Facebook che la mise il Guttalax nel bicchiere del marito, che sospettava che l'uscita con gli amici non sarebbe stata con gli amici, e lo ebbe a tutta sua disposizione per tutta la notte, dolorante nell'intestino, fuggevole nella sua possibilità di starle accanto, ma schiavo di se stesso. Quindi naturalmente questo fu un altro atto infame che merita senz'altro la gratificazione, forse, del libro infame. Ciao, mi chiamo Sabatino. Volevo dire a tutto il mondo che amo una ragazza di nome Jessica di Alvignano, in provincia di Caserta. Vi voglio dire che voglio stare con lei per tutta la mia vita. Ti amo da morire, amore, non ti prego, sta con me per sempre. Non ti voglio fare una famiglia, ti prego. Ti amo, ti amo, ti amo. Sei tutta la mia vita. Per favore. Ti amo da morire, voglio dire a tutto il mondo che sono follemente innamorato di te. Ti amo. Ciao piccolino mio, ciao. Povero ragazzo che ha lasciato questo disperato grido d'amore su YouTube, l'ha lasciato indelebile nella rete, gli sarà rinfacciato quando avrà i capelli bianchi, avrà i nipotini, avrà una moglie grassa con le vene varicose, gli sarà rinfacciato di aver lasciato questo messaggio. È il tipico messaggio dell'accannato. Accade per l'uomo, non so cosa accada per le donne, nessuna me l'ha mai confessato, per quanto abbia avuto parecchie amiche con le quali ho anche avuto intimi momenti di confidenza, ma nessuna donna mi ha mai confessato qual è l'infamia a cui sarebbe disposta in attimi come questi. Questa è la sindrome da accannamento. Questo ragazzo è stato accannato dalla fidanzatina. Accannato perché magari la trascurava, magari pensava di poter avere su di lei un potere assoluto ed eterno. Il giorno che si è accorto che lei ha girato il suo grazioso visino verso qualcun altro, e quindi l'ha mandato tranquillamente a quel paese, improvvisamente si è accorto che di lei era innamorato. Non aveva mai sospettato questo, ma l'amore sboccia improvviso, lancinante, doloroso, quando qualcuno ti accanna. E quindi ha cominciato a creare l'indegnità della sua auto-eliminazione come essere umano, promettendo le cose che non ha mai pensato, mai desiderato e nemmeno desidera in questo momento. Ti sposerò, ti amerò tutta la vita e ti vorrò sempre accanto. Quando l'essere accannato nel momento di follia amorosa compie l'atto indegno, non sa lucidamente che più persiste nell'indegna profanazione della sua dignità e più si allontana dalla possibilità di ottenere l'oggetto del desiderio, perché in realtà l'atto indegno si fa soltanto per un attimo di riaffermazione di potere su un'altra persona. A quello è mirato l'atto indegno. Nessuno che compie un atto indegno in realtà vuole sposarsi, vuole amare per tutta la vita, vuole fare un auto da fe totale sui propri comportamenti, vuole solamente riavere la certezza per un istante di poter stringere tra le mani quella farfallina, quell'uccellino, quell'essere che gli è sfuggito, stringerlo e stritolarlo. Per questo si fanno gli atti infami, per il possesso totale. 800 24 00 24. Antonio Nicoletti. Allora, avanti. Nicoletti, con il... buongiorno. Andiamo al suo atto infame. Il mio atto infame, indegno. Lo sento tutti i giorni e mi fa morire dal ridere. Niente, mi ricordo di una cosa di qualche anno fa. Ero andato a ballare in un posto dove c'erano dei travestiti e delle lesbiche. Sì, ma... sì, sì, ma dove sono e questi io... posti che si va a ballare? No, a Milano ci sono, glielo garantisco. Quindi... No, lo metto in dubbio, dico, ma... Va bene, e lei era andato con un preciso scopo, naturalmente. No, io ero andato normalmente. Sì, a dare un'occhiata. Com'era la situazione? Certo. Ho visto una donna con i capelli corti, tremendamente bella, però era dell'altra sponda e il mio atto indegno è stato Ma scusi, ma adesso io... non voglio... Ma sì. Se lei andava per consumare un lecito rapporto eterosessuale, o come era nella sua intenzione, perché è andato in quel posto? Come andare a comprare, che ne so, a comprare le patate dal banco dei Ravanelli? Non c'è senso, per curiosità ero andato. Vabbè, voleva una cosa strana. Mi sono spacciato per un gay. Sì. E sono riuscito, mi ricorderò sempre, in corso di Porta Romana a Milano, a portare su nella sua stanzetta. Sì. E io gli dicevo... guarda che ho paura, non sono mai stato con una donna, non cioè, so e lei sta tirando fuori l'attrezzatura dall'armadio, certo, per quello. Cioè, una roba fuori dal mondo. Me l'immagino. Ci siamo messi nel letto, lei si è girata, a un certo punto gli ho detto dai, fai tu il maschio con me, dai, che io non so che cosa sia. Guardi, mi sono vergognato come un pazzo. Sì, sì, vabbè, giustamente si vergogna, perché non voglio sapere come è andata a finire, ma provo a immaginare che in realtà sia stato un momento devastante. Tremendo. Vabbè, tremendo, lei non è che abbia fatto... Me lo ricordo ancora oggi. Sì, sì, no, me l'immagino. Certe cose lasciano il segno e sono dolori che non si dimenticano. Vabbè, in bocca al lupo. Non grazie, è esattamente Nicoletti. Quello che cercavo, però giustamente anche lei si è espresso dando modo di fornire una varietà espressiva comunque in questa trasmissione. Alfonso. Alfonso? Alfonso, sento soltanto questo rumore insistente. Vabbè, andiamo avanti con il nostro argomento, che è quello dell'atto indegno che si compie per amore. Ripeto, la primavera ci suggerisce un habitat olfattivo, una sinestesia totale, un coinvolgimento di sensi in cui ci sentiamo pronti, naturalmente, a compiere passi che durante l'anno non compiamo. In particolare per compiere certi passi, non alludo a passi estremi come quello del nostro ascoltatore che alla ricerca dell'eterodossia più spinta ha rivelato una parte della sua natura, secondo me non ha finto assolutamente nulla, semplicemente espresso un desiderio e sarà stato senz'altro accontentato, ma banalmente molte persone riescono a compiere degli atti che vanno oltre il loro orgoglio, oltre la loro dignità, calpestano se stessi pur di ottenere una sorta di rassicurazione amorosa. Riecco Alfonso. Alfonso? Sì, buongiorno. Eccoci qua. Allora, qual è l'atto indegno che lei ha compiuto per amore? Ah, mi è venuto in mente proprio adesso, mentre avevo 20 anni, avevo litigato con la mia fidanzata, in realtà ci eravamo piantati, non sapevo veramente come riconquistare questo rapporto, e allora mi venne in mente una cosa drammaticissima: comprai una pistola giocattolo, no? In un negozio di vendita. Finse il suicidio. Prego? Sì, ma non un suicidio, in realtà diedi l'appuntamento a questa ragazza lungo la riva del mare, no? Salimmo su un pontile che affacciava sul Golfo di Napoli, perché eravamo lì in effetti, e a un certo momento con grande... Cioè, presi dalla tasca questo pistolo giocattolo, che era veramente una cosa di plastica nera, e la lanciai, no, in mare, no? Dicevo, vabbè, adesso non... contando sul fatto che lei non si sarebbe mai accorta che in realtà era una pistola giocattolo. Galleggiava, comunque... forse, quando ha visto che galleggiava, forse si è messa a ridere. Ho avuto un attimo di terrore, magari mi lanciato la finisse invece su qualche scoglio, qualcosa del genere. Invece, insomma, vide solamente questa cosa nera, e spero che la vide, ma insomma, in qualche modo non mi vergogno ancora adesso di ecco, di bravo, essere... Voglio entrare un attimo nel particolare. Allora, per capire la radice del gesto, come lei pensava allora che avrebbe impressionato la sua fidanzata a vedere un signore che lancia una pistola in acqua, tanto a dover ritornare con lei? Qual era il ruolo che voleva impersonificare, che si era imposto? Ma io in realtà ero, dunque, prima di tutto devo fare un mea culpa, perché ero stato io che in realtà me l'ero svignata all'inglese, come si suol dire, no? Da questo rapporto. Dopo le rodeva. Poi in realtà le dirò anche un'altra cosa, che oltre che rodermi, avevo poi scoperto per altre cose che la ragazza in questione era rimasta anche era rimasta incinta. Di un altro? No, suppongo di me, perché la cosa era avvenuta proprio a stretto giro di beh, Ponzi, di cose. Come dire. E allora a quel punto mi venni preso veramente da un grosso complesso di colpa, eccetera. Mi sembrava veramente brutto questo fatto di essere... Non lo sapevo, l'avevo piantata, perché in qualche modo il rapporto era diventato insostenibile. Ho detto fra me e lei e pochi altri migliaia di ascoltatori. Sto parlando di mia moglie, peraltro. Ah, poi sarei pure sposata. Sì. E non si vergogna dirlo alla radio adesso, della pistola di plastica? Io spero proprio, anzi, sono pressoché convinto che lei non sia in ascolto, perché altrimenti... È una rivelazione. No, ma mi risponda alla domanda. Lei con questa pistola di plastica che tipo di impressione voleva dare? Un coatto, un galeotto, un suicida, un omicida? All'epoca, no, ero un po' un maledetto, nel senso, ero uno che era se n'era proprio andato, figuriamoci. All'epoca vivevo al nord, avevo dato appuntamento a Napoli. Ah, voleva fingersi terrorista, qualcosa del genere? Sì, beh, insomma, poi l'epoca era un po' quella, proprio. Ah, ecco, dice, guarda, anche un po' di... sì, rinuncio a entrare in clandestinità per amore, una cosa del genere. No, non proprio, no, era proprio, dire, guarda, ero talmente disperato, avevo pensato, come dire, no, non senza arrivare, ma io... Se mi ascoltasse il mio amico Beppe Neri, psichiatra, direbbe che è una sorta di espressione di complesso di Origene, era una castrazione pubblica, lei gettava via la pistola, come per dire, me lo taglio. Sì, è questo. No, però ripeto, avevo messo steso un pietoso velo sulla vicenda, poi sentendo la radio... Comunque lei non si è accorta di sta pistolina di plastica buttata in acqua? Ma non l'ho mai capito fino in fondo, anche perché io non è che l'ho detto adesso, guarda, però ho pensato che il gesto poteva, guarda, quindi non c'era stato, non c'era stato un... Vabbè, è andata così, dai, tagliamola, perché sennò va troppo lunga. Oggi poi se l'è sposata, e quindi alla fine la pistolina buttata via, che simbolicamente è un atto irreversibile, le ha procurato una moglie che ancora dura oggi dopo decine di anni. Complimenti, Massimo. Buongiorno Nicoletti. Parli del suo gesto infame. Allora, ero giovanissimo, cioè giovanissimo, 20 anni. Oh, le donne zitte, buone oggi, ma naturalmente tutte sante Marigorette, nessuno fa nulla, gli arriva tutto in mano così, bravi, complimenti. Va, andiamo avanti, dimostriamo insomma, che non abbiamo pudore in questo. Insomma, era entrata una ragazza nuova nel nostro gruppo di amicizia e... piaceva più di una persona, e allora spandeva un odore malandrino attorno a lei. E insomma, una sera ci siamo incontrati in quattro, che erano quelli che più o meno erano gli spasimanti, diciamo, e abbiamo fatto un pokerino: chi vinceva poteva andare, ecco, doveva provare perlomeno. E lei era d'accordo, la ragazza? Non l'ha mai saputo. Ma voi la siete giocata a poker? L'abbiamo giocata a poker, sì. Abbiamo fatto una serata abbastanza lunga a poker, alla fine ho vinto io. E quindi? È andata bene. Quindi gli altri hanno lasciato il campo libero? Hanno lasciato il campo libero. Sì, poi nel tempo ho ripensato spesso a questa cosa, perché lì per lì l'avevo anche rimossa, perché mi sembrava una cosa... Non dico normale, però insomma... Io non ci trovo nulla di indegno, onestamente, guardi. Sì, oggi riflettendoci bene. Insomma. Ma non è molto indegno, guardi, io troverei peggiore quella tipica situazione in cui si sta come mosconi attorno a una donna e nessuno se ne va a casa la sera. C'è questo braccio di ferro terrificante. Si sa che tutti, 4, 3, 2, 1, il numero è vario, ambiscono a restare soli con quella persona. La persona lo sa esattamente, naturalmente va in estasi per il fatto di aver... E passano le ore e le ore, si chiacchiera, si fa lo spaghetto, si fa il bicchiere, si dice la battuta, si gioca sullo sfiancamento degli altri. Chi ultimo rimane naturalmente vince. Lentamente uno dopo l'altro potrebbero andarsene. Va, vai, ciao, non ti trattengo, vuoi andare? Domani devi fare... No, no, sto benissimo, anzi, stappiamo un'altra bottiglia. Ecco, quello è veramente un'infamata. Vabbè, devo interrompermi perché devo dare la linea alle informazioni per la borsa. 800 24 00 24. Amerei che anche qualche signore in ascolto mi parlasse di atti indegni compiuti per amore, passione o anche semplice lussuria. Melog 2.0. Perché sei venuto così presto? Hai scritto sabato mattina. Ma io devo ancora vestirmi. E allora a che ora vuoi partire? E poi ti sei conciato in un modo. Ma che cosa ti è venuto in mente? Ma se proprio tu dicevi... Ti preferisco con quella tua roba da mortorio. Ti sta molto meglio, credi. Ma l'aide... Ma perché? Che cosa ho detto? Niente, niente. Voi altri uomini siete dei perfetti cretini in certe cose. Soltanto tu potevi cambiare la tua carriola con una baracca simile. Se sei pronta possiamo andare. E non mangiamo prima? Senti, non sarei mica avaro per caso. Per questo pensavo di mangiare a Parma. Costa meno. Ma io devo salutare Marcello. Marcello chi? Marcello, mio cugino. Ma insomma, te l'avrò ripetuto 100 volte. Aspetta pochi minuti che vado a vedere se lo pesco. Mi raccomando, tieni bene il guinzaglio. Si chiama Picchi. Ah, dimenticavo, fammi un piacere. Scusami, sai. Che cosa? Qui all'albergo ho qualcosa da pagare. Ah, sarebbe come dire il conto. Lo vedi? Subito a pensare male. Il conto è già pagato, cosa credi? Che ti faccia venire giù da Milano per pagarmi il conto? 800 24 00 24. Quali atti indegni siamo disposti a fare per amore? Questa mattina soltanto gli uomini, o molto gli uomini, si sono dati da fare nel rispondermi, nel confessare. Nella primavera, annunciata dal profumo del gelsomino, ci sentiamo tutti più indifesi, tutti più deboli, tutti più disposti a compiere atti indegni per amore. Quello che avete sentito era un film tratto da Un amore di Dino Buzzati. L'architetto Antonio Dorigo è una sorta di professor Unrat dell'Angelo Azzurro, impelagato in una vicenda civile nella Milano nebbiosa degli anni Sessanta. Si innamora di una donna che non è la sua altezza, cioè nel senso che non se la può permettere da nessun punto di vista. Una donna libera, disinibita, anche molto mignotta, diciamo la verità, e quindi ne è completamente schiavo. È un continuo rinfacciargli da parte di lei la sua miserrima condizione di uomo innamorato, di uomo schiavo, di uomo trastullo. E lui ne è consapevole, sa di essersi invischiato in una storia che non può contenere, ma quella sorta di masochismo tipico degli uomini che amano compiacersi nel proprio degrado amoroso continua a andarle dietro, continua a dissolversi, continua ogni giorno a avere davanti lo specchio implacabile del suo agire infamemente in nome non dell'amore, non della passione, non del desiderio, non dell'appagamento carnale, ma in questo caso è una sorta di masochismo amoroso tipicamente maschile. Ma sentiamo Marina. Marina, buongiorno. Buongiorno. Oh, finalmente ha inaugurato il filone delle donne che ammettono atti infami con fine amoroso. Allora, il mio atto infame è successo un bel po' di anni fa, ero per un master negli Stati Uniti e con un mio carissimo amico come un fratello. Siamo andati un long weekend a Cabo San Luca, in Baja California. Io ero in spiaggia, lui in piscina a giocare. A un certo punto torno in piscina... Ma c'era trasporto carnale fra voi, era così? No, assolutamente. Cioè un uomo trastullo, un poveraccio, si portava dietro così? No, sì, amici. Sì, ma amici, che se lo portava a fare dietro? Qual era lo scopo di quest'uomo? Ci divertivamo insieme, viaggiavamo insieme, io facevo il master, lui mi ha detto ti accompagno. Ma era segretamente innamorato di lei? No, assolutamente, zero. Vabbè, un uomo trastullo come tanti. Torno in piscina dove era lui, tiro sugli occhiali da sole, lo chiamo, gli dico vieni un po' qua, lui arriva e dico giochi con i brutti, lui si gira perché io avevo visto quest'uomo di una bellezza da ammazzarsi, Andy Garcia giovane, un fisico pazzesco, e gli ho detto chi è quello lì? E lui mi ha detto ma un americano, gioca con noi, e dico lo voglio a tavola stasera. Lui ha fatto brigato, morale, mi sono trovata questo americano che faceva surf, non ti dico, difficile parlargli inglese perché i surfisti non parlano propriamente. Vabbè, lei non è che poi l'aveva chiesto per farci due chiacchiere, non è... No, assolutamente. Quindi, non per farci due chiacchiere, potrebbe essere anche muto. Quel minimo, sai, quel mezz'oretta per riuscire a tavola a capire come ti chiami, quelle tre cose. A lei interessava una muscolare d'azione, fine. Assolutamente, certo. Sì. E così mi sfugge ancora il ruolo del suo amico, perché o è un masochista o non capisco questa sorta di procuratore di salamelle per la propria amica, io non l'avrei mai fatto. Comunque, andiamo avanti. E niente, così è successo. Quella sera c'è stata, io non sono tornata nel mio albergo, sono andata in questo motel dove era il surfista e... Lei ha fatto l'onda naturalmente, lui l'ha cavalcata. Ho fatto l'onda, poi lui era campione del mondo di surf, per cui... Sì. E l'amico cosa faceva? Piangeva in un angolo? Cosa faceva? No, assolutamente, sbagli, non, per lui io ero un'amica e lui non era in grado di girare il mondo da solo. Guarda, io vorrei trovare un'amica... che abbia le stesse caratteristiche e la stessa capacità del suo amico, le giuro, l'ho cercata tutta la ma vita. Ma io l'ho cercata, io gli ho trovato delle fidanzate negli anni, a me non piaceva neanche vagamente, mi era molto simpatico, assomigliava a Charlie Brown. Poverino, è vivo ancora? Sì, sì, ancora vivo. Non ho mica 200 anni, eh. No, che ne guarda so. Che non ascolto più la tua trasmissione. No, la sua è un'attività logorante, cioè essere lì con tutte queste fatiche, andare in giro a trovare atleti per la sua amica, è un lavoro usurante. Ma lui non me l'ha neanche cercato, solamente ci giocava e l'ha invitato a cena, questa è stata la sua fatica. Va bene, ben ripagata, grazie, questa è una bella confessione comunque. Lucia. Sì, buongiorno. Ecco, finalmente vi siete svegliate. Lei cosa ha compiuto di indegno? Allora, premetto che questo è stato un grande amore e durato. Ma sì, ma anche se non è stato un grande amore, non è una giustificazione. Vabbè, questo è stato un grande amore. Lo dice per la sua coscienza, ma a me non interessa nulla. No, sì, coscienza di che io quello che ho fatto e l'ho fatto con tutto quanto il trasporto, per cui non devo rimpiangere proprio niente. Ma se lei, no, per dire, ed non per essere degli, se lei mi avesse detto l'ho fatto solo per lussura, per piacere, per me era la stessa cosa. L'ho fatto perché se lo meritavo, appunto. Ecco. Allora, praticamente negli anni, ci sono stati 17 anni circa, ci sono state tante vicissitudini, ci siamo presi, lasciati. Comunque lui tornava sempre a casa. E a un certo punto ci siamo, diciamo, bisticciati. Dopo 3-4 mesi lo incontro al comune con un'altra donna. Lo chiamo al telefono, dico, scusa, ma che ci fai al comune con questa donna? Ma un'amica prima. Dopo qualche settimana ho saputo che si era sposato al comune con questa donna. Perché ho preso una bella latta di benzina, sono andata dove c'aveva la macchina e gliel'ho resa inutilizzabile. Cioè gli ha incendiato la macchina. Poi lui è tornato da me, chiaramente, perché dopo 2 mesi ha lasciato questa donna con cui non si trovava. Di fronte a un gesto così anch'io sarei tornato da lei. Lei sono meritata. Non credo. No, no, giuro. Una donna che mi incendia la macchina è la donna che vorrei amare per sempre. E questo è quanto. Cioè, comunque... Quindi lei, no, questo è stato... È un'ottima rappresentazione dell'atto indegno. Più che indegno è l'atto estremo. Lei ha compiuto un atto estremo, eroico, glorioso e oltre ogni regola e oltre ogni pudicizia e ogni comportamento. Comunque, lei ha incendiato la macchia di quell'uomo e gli ha fatto capire che in realtà quel fuoco valeva la pena di lasciare la squallida mogliettina sposata in comune come tappabuchi per la passione che aveva lasciato. Brava. Chiara, poi sì, chiudiamo. Buongiorno. Buongiorno, allora io premettendo che temo che sia difficile battere il suo atto indegno, quindi forse questa volta se lo deve... Il mio quale? Quello di fingersi orfano. Ah veramente. Sì, ma ne ho fatti anche peggio, poi non è che li posso raccontare tutti alla radio, le assicuro, guardi, molto peggio. Quello è il pallido atto indegno, anzi più divento vecchio più ne faccio, quindi... Allora, quello che ho fatto io un po' di anni fa è questo, io sostanzialmente avevo... Mi piaceva molto questo tipo che non mi si filava di pezza. E avevo questo corteggiatore, tra l'altro molto bello, ma molto insignificante, che a me non piaceva tanto, cioè non mi piaceva proprio per niente, se non per il fatto che era bello e che mi inorgogliosiva di avere questo bello, che era proprio un servo della gleba, che era poi il motivo per il quale non mi piaceva. Ah, quindi era bello, ma era plebeo e quindi non le piaceva. No, servo della gleba nel senso che era molto servile. Un uomo servile, confronti. Sì, terrificante. Sì. Anche terrificante. Le donne servili comunque. Sì, no, in generale però... Diciamo che il servilismo è antitetico all'attizzamento. Chi ti è servile non ti ispirerà mai. È verissimo, lui era veramente bello, ma ciononostante proprio non mi piaceva. E quindi io sono organizzato questa bellissima serata, giornata al museo, e praticamente ho invitato sia quello che mi piaceva e non mi si filava, che quello che non che mi piaceva servino. E mi filava. E questo per far ingelosire quello che mi piaceva e per fargli vedere che ce n'era uno bello. Che non è che funziona sempre comunque, eh. A volte guardi che è molto pericoloso fare questo gioco. Non no, lo consiglio io. Soprattutto vedere la faccia del ragazzo, insomma, che un po' mi corteggiava, mi è bastato per tutta la vita, perché è veramente rimasto veramente veramente male, non si è mai più fatto sentire da quel dopo quel giorno. Però l'altro ottenni... non si è fatto no, no, ottenni il mio scopo, esatto, sì. Vabbè, comunque ha preso due piccioni con una fava più o meno, perché però... uno se n'è liberata di uno e si è preso con l'altro. Vero è, però la faccia di lui è veramente... E anche gliene importa, tanto doveva morire quello lì, non è che è un problema. Cioè, non credo che le faccia pietà, un viscido servile che le veniva dietro. Ha fatto bene, ha liquidato bene, una grande soddisfazione. È fortunata, la vita le ha dato una grande occasione comunque. Melog 2.0. Allora, andiamo al go-kart, eh? Ma è chiuso il go-kart! E noi lo facciamo aprire, vieni. Sì, facciamo aprire. Oppure no. Andiamo a cavallo. Ma insomma, io non lo so dove sta il cavallo. E poi adesso dormirà. E noi lo svegliamo. Sì. Voglio svegliare tutti, voglio svegliare. Oh. Tony, ma che fai? Caschi, Tonino. Oh, povero ingegnere, sei stanco. Ma che stanco, poverino. Figurati. Il bagno nudi. Voglio buttarla sullo sportivo. Ma c'è la luna bassa, il bagno va con la luna alta. E poi io c'ho freddo. Oh. Allora, andiamo al go-kart, eh? Ma è chiuso il go-kart. E noi lo facciamo aprire, vieni. Sì, facciamo aprire. Ma che fai, caschi, Tonino? Un po' l'ingegnere, sei stanco, ma che stanco, poverino. Figurati. Dai, su, fate un bel riposino, su. Non voglio riposare, voglio fare il bagno. Ma no, che bagno. Voglio regalarti una fonderia, la fonderia Francesca. È morto il capo! Evviva il capo! 800240024, questa è un'altra storia terrificante, un film del 62 di Luciano Salcia, La voglia matta, con l'esordio di Katrin Spack, allora meravigliosa e bellissima, e Tognazzi che fa l'uomo trastullo. Anche qui questo industriale milanese si accode a una comitiva di ragazzi, infogliato come una bestia per questa ragazzina, perfettamente consapevole che è oltre le proprie possibilità. Se ci si rendesse conto quali sono i propri limiti, ci sarebbero meno atti indegni per amore. Ma anche lì, per questo masochismo tipicamente maschile, ci si butta dentro, diventa lo zimbello di questa compagnia di ragazzi, arriva a fare cose innominabili per riuscire a mettersi in mostra agli occhi di questa ragazza, quando uno dovrebbe capire che mettersi in mostra è inutile, stare nella penombra, meglio nascondersi, meglio giocare sui sottotoni, sui semitoni, quando si è fuori ormai della fascia d'età di corrispondenza amorosa con persone molto più giovani. Eppure Tognazzi tocca il fondo, anche lui compie una serie di atti indegni. Ma quali sono gli atti indegni che voi sareste disposti a compiere in nome dell'amore, in nome della lussuria, in nome del desiderio inappagato? In questi giorni la primavera sembra aver risvegliato tutti i nostri desideri. Devo dire che dei libri infami che oggi daremo a quelli più sinceri, a quelli più profondamente privi di pudore nel raccontare i propri gesti indegni, ne abbiamo già assegnati due. Non dirò a chi, non dirò quali saranno i libri, lo saprete alla fine. Ne esiste ancora uno, forse il migliore della terna di oggi, che assegneremo a chi ci darà la testimonianza più sincera. Laura, vediamo se ci riesce lei. Sì, buongiorno. Guardi che è veramente succosissimo il premio. Immagino, però la mia storia non so se è paragonabile a quelle che ho sentito. Lei quanti anni ha? 23. Ecco, quindi è fuori target, questa è una trasmissione in cui chiamano le ottantenni di solito, quindi mi fa piacere. Sì, sono giovanissima, ma l'ascolto sempre. E cosa impara da questa trasmissione? Tantissime cose. Bene, spero che apprenda l'infamia sublime nelle vicende, allora, amorose. Speriamo di no. Come no? Se però... non c'è infamia non c'è amore, che ancora non l'ha capito. No, questo è vero, sbriga. È vero. Allora, prima sono stata vittima e anche autrice, diciamo, perché in questa storia molto lunga che ho avuto giovanissima... Le faccio un esempio? Come foto di status sul mio profilo Facebook oggi, come gesto infame, ho messo una mia foto che guardo una vetrina di un negozio di articoli sanitari in cui è esposto il cuscino antiprostata. Questo è il mio gesto infame. Prego, vada avanti. Allora, niente, prima io innamoratissima di questo ragazzo, ci mettiamo insieme e lui continua ad avere una storia con la sua ex. Io consapevole accetto per amore, lo sprono anche ad andare con lei perché così possa scegliere effettivamente quale delle due è. Alla fine sceglie me, dopo anni lo lascio, lui minaccia il suicidio, non mangia più, arriva a farmi vedere le costole. Arrivava da me, mi faceva vedere quanto era dimagrito. Sì, beh, è vecchia tecnica, arrivano, esatto, anche all'autolesionismo. Sì, non c'è arrivato per fortuna, ma guarda le cosa non faccio. Sì. L'accannato infinite. Smette di mangiare, è un'ottima dieta. Farsi accannare da un innamorato, da una persona che si ama, è una maniera per dimagrire velocemente di una decina di chili nel giro di 2 settimane. Esatto, più o meno era successo questo. Lei questa cosa commuoveva questa cosa oppure non ne importava nulla? No, mi ha fatto sentire in colpa, talmente tanto da ritornare. Gliel'ha ridata per senso di colpa? Ma non... Sì. E quindi? E infatti questo è appunto il mio antidegno. Il suo antidegno, certo. L'essere ritornata, perché è una cosa pazzesca. Lo so, è un po' il complesso della Croce Rossina. Beh, comunque ha fatto un regalo a questo ragazzo, finalmente ha elaborato il suo senso di abbandono e l'avrà trattata malissimo poi. No, in realtà no. Vabbè, e poi dopo invece l'altro... No, basta, era questo. Questo, quindi l'ha subito, sì. E l'ha fatto. Beh, comunque è interessante. Ha messo a punto un altro dei masochistici sistemi, richiamare l'attenzione, non mangio più, mi sento male, guarda come mi ha ridotto. Mario. Mario io? Sì, Mario lei. Ciao Nicola. Ciao Gianluca, scusa. Eccomi. E allora, in treno, treno pendolare dal nord al sud, mi alzo per fumarmi una sigaretta. E passo da uno scompartimento, vedo lei, le faccio segno, vado a fumare, arrivo al bagno che è occupato e ahimè non riesco a trattenere una puzza, ma non una puzzetta, sai, di quelle... Sì, sì, senza che entrano i particolari, quelle dense, diciamo. Nel frattempo una vestita, per dirla fino in fondo. Lei mi raggiunge con l'amica, io sto in questa nuvola e ci sono due extracomunitari che parlano tra di loro. E ha dato la colpa ai poveri di extracomunitari. Ho alzato lo sguardo, ebbene sì, ho alzato lo sguardo di commiserazione, indicando loro, come per dire, che vuoi farci. Ma non avevo alternative. Sì, però guardi, siccome quel tipo di espressione corporale ha una coda lunga, lei poi come ha fatto a simulare, perché di solito segue come se fosse un cagnolino, quindi... Io non mi sono mosso. Ah, non sei mosso lì. Non li ho mollati. Ah, è stato sempre attaccato agli extracomunitari. Sì, sì, sì, sì. Però guardi, io non voglio infierire, ma il sospetto è resta. Qual è? La ragazza, secondo me, non... Se avrà finto di credere. Se una professionista potrebbe ricomandare, lì si tratta... Era una di quelle davvero pestilenziali, per questo sottolineo là. Lo so. Cioè, proprio quelle brutte, da poveri, capito? Cioè, sì. Da chi mangia male. Ah, quindi ha fatta una da povero, ha avuto questa fortuna. Sì, ha avuto la fortuna. Fosse stata il caviale e champagne, non c'era modo di appropriarla all'altro. Vabbè, grazie Mario, è interessante. Giancarlo. Buongiorno Nicoletti. Mi sente? Certo, sì, sì, la sento. E si esprime. Ecco, a me è successa un po' una cosa strana rispetto alle altre, perché una mia ex, praticamente, pur di stare con me, ha fatto finta di essere incinta per continuare il rapporto. Fino a quando, diciamo, dopo un paio di mesi che lei, diciamo, a parte che comunque aveva cambiato atteggiamento, perché anche i rapporti sessuali erano diventati un po' più accentuati rispetto a prima, quindi la cosa mi aveva anche un po' sospettita, perché lei le analisi non le voleva fare, diceva vabbè, ma aspettiamo. Ma cosa era basata questa ipotesi di gravidanza, allora, scusi? Lei l'ha fatto, ha fatto con il test, me l'ha fatto anche vedere, però non so come abbia fatto, ma lei dopo me l'ha detto che era tutta una cosa. E quanto è durata questa farsa? Un paio di mesi, perché io dopo l'ho costretta ad andare dal ginecologo, lei non ci voleva venire. Un paio di mesi, qualcosa deve essere accaduto in questi mesi che doveva darle la prova che non fosse vero. Certo, l'atteggiamento suo, No, ma qualcosa, cioè, gli dava un'occhiatina, nel giro di un mese qualcosa accade se uno non è incinta. Ma infatti non accadeva niente, cioè era sempre uguale. Forse cambiava, lo era, solo certo. L'atteggiamento materiale suo. Vabbè, ma, e che risultato ha ottenuto questa signora? Niente, che dopo ci siamo lasciati, perché lei praticamente ha fatto tutto questo, perché il nostro rapporto comunque non andava più bene e quindi l'ha accannato. E vabbè, ha subito. Esatto. In bocca al lupo, spero un'altra volta si svegli. Bene, è il momento dell'assegnazione, scusate, manca un minuto alla fine. Oggi abbiamo, grazie al professor Chiappini, addirittura una sigla. Il vincitore è... Ho vinto qualche cosa? Allora, primo libro, Enrica Buonaccorti, L'uomo immobile, lo vince Alfonso, colui che si privò della pistola per amore, infatti si è sposato. Secondo libro, lo vince Lucia, colei che aveva un uomo trastullo per procurarsi vigorosi, no è questa? Sì, è questa, vigorosi e muscolosi atleti di surf. Vince Teorie tecniche dell'infamia amorosa di Anna Pettinelli e David De Filippi. Ultimo e non ultimo in onore, lo vince Mario, il puzzone, che vince SOS Matrimonio di Simona Malcovati e Chiara Parrini, perché chiaramente con quel suo problemino intestinale nessuno lo vorrà mai come marito. Ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.